Zolt. Fulminati in azienda. Allora ragazzi, riassumendo, la relazione per il convegno di Osaka sulle aziende etiche? Pronta. La stampa delle copie in giapponese? Tutto pronto. E le cose logistiche lì, biglietti aerei, alberghi, treno? Sono pronti, ci sono solo due dettagli da chiarire. L'unica cosa che vedo è all'ufficio viaggi mi dicono una cosa che adesso... Ma tanto tolto le vocali, centrifuga, parla, di, esprimiti. A Marco, c'è sta un biglietto pure per tua moglie. Ma come mia moglie? Scherziamo, come mia moglie? Eh sì. Senti, no, io, il sottoscritto in questo caso prevedeva di portare un'amica. No, Marco, mi dispiace, ma questa volta non puoi proprio. Ah sì, e cos'è questa novità dell'ultima ora? La direttiva degli organizzatori del convegno è chiara. Essendo un convegno internazionale sull'etica, cito testuale dal giapponese, le uniche accompagnatrici ammesse sono le legittime mogli. Capisci, Marco, non sarebbe proprio coerente ca mission, sta cosa. Sì, vabbè, ho capito, ma ragazzi, però diciamo la verità. Cosa ne sanno i giapponesi di chi è mia moglie? È pronto, amore mio, Katia? Ciao, dimmi Marco. Tutto bene? Bene. Guarda, ho comprato il kimono e il vestito da geisha. Ecco, a proposito di geisha, fiorellino mio bello, ho comprato la pasta e la polenta. Ecco. Che quelli mangiano solo il pesce crudo. Certo, in Giappone sono così, però a proposito ti volevo dire una... Un fiaschettino di vino che bevono solo il tè. Ecco, a proposito, hai finito la lista della spesa, amore mio, ti volevo dire solo una cosa. No, veramente ho comprato anche altre cose. Ecco, bene, però mi ascolti un attimo, perché in Giappone purtroppo abbiamo un problema. A Osaka è tutto paralizzato, lo sai che lì sono strani, non hanno voglia di lavorare i giapponesi, hanno incrociato le braccia tutti, sciopero dei tassisti, aeroporti che non si sa se aprono, l'albergo che forse non c'è, stanze sporche e soprattutto tutti i negozi chiusi. I negozi chiusi, allora cosa ci vengo a fare? Marco, ma sei sicuro che ci ha creduto? Uè, c'entri, ma scusa, sono un affabulatore nato, ormai mi conosci, ho venduto i frigoriferi agli eschimesi. E poi la Katia mi ama, dai. Ma Marco, ma dicevo se t'ha creduto tua moglie. Ah, scusa, mia moglie, vabbè, ma anche lei, ma certo. Uè, ma poi non sta né in cielo né in terra che c'è qualcuno che mi obbliga a portare mia moglie a un convegno internazionale. Ma dai, ma scusa. E in effetti c'è ragione. Guarda, sì. Neanche mia suocera mi ha mai obbligato a fare una cosa del genere. E sì. A me sì, invece, e se vede pure c'ho l'ernia iadale proprio. E poi, scusa, ti posso dire una cosa? Mia moglie di Osaka non sa niente. Convegno, io sono un top manager di livello internazionale e faccio quello che voglio con i grandi della terra, no? Mi porto i miei colleghi fidati che mi danno manforte. Scusami che suona il telefono, scusa un attimo. No, dai, è la Font, rispondi tu per piacere, rispondi tu, dai, non c'ho voglia, dobbiamo partire. Pronto, Font, so c'entri. C'entri, carissimo, Marco è lì? Guarda, sì, cioè no. Si è allontanato un attimo per un'urgenza, doveva fare. Vabbè, comunque torna subito, ha detto guardi, EDM. Volevo solo dirgli una cosa, ma puoi comunicargliela tu. Sì. Sto andando a prendere la moglie a casa, ci vediamo in aeroporto. Afon, ma che sta a scherzare? No, si è presentata in ufficio stamattina, sapeva tutto, allora le ho detto che Marco aveva già organizzato e voleva farle una sorpresa. Mamma e poi era grigio, è ragionevole andare da solo, era è come grigio. Se Bill arrivasse senza la Hillary, o Brad senza Angelina, sì. O Pippo senza... Sì, senza Pippa, vabbè. Allora, Beautiful, arriva o non arriva la Font? Marco, c'è stato un casino. Ma come c'è stato un casino? Cosa è successo? Allora, l'amministratore delegato nostro ha chiamato la Font e ha detto che io purtroppo debbo sta qua, non posso andare a Okaga perché c'è sta un picco del lavoro. No, ma veramente, non puoi venire con noi? Ma sai che... Ma dai, ma mi dispiace. E anche a me, però non ci fa caso, Tu piuttosto vedrai quanto ti diverti a sto giro, vai. Vai a Okaga che la Font aspetta. Vai. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t